Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. Sono in paradiso quando balliamo guancia a guancia. Così canta Fred Astaire nella meravigliosa scena tratta dal film Top Hat del 1935, dove balla con Ginger Rogers sulle note di Cheek to Cheek di Irving Berlin. Considerato il più grande ballerino del XX secolo, indiscusso maestro di tip tap, attore e cantante sopraffino, ma soprattutto quintessenza di stile ed eleganza, Fred Astaire conquista nella sua lunghissima carriera milioni di fan in tutto il mondo. I suoi splendidi numeri di danza accanto a partner meravigliose come Ginger Rogers, Sid Charisse, Rita Hayworth, Judy Garland e Audrey Hepburn fanno sognare intere generazioni. Ma Fred Astaire non ha solo questo grande merito. Con la sua arte, con il suo solo esistere e probabilmente senza nemmeno mai venirne a conoscenza, il grande ballerino ha il merito di salvare la vita a una donna forse altrettanto nota quanto lui, sicuramente amatissima dal pubblico di tutto il mondo. Una donna che in questo momento, siamo nel 1984, ha saputo di essere molto malata e si trova in una stanza d'albergo a New York sola e con un terribile pensiero, quello di suicidarsi. E lei stessa a ricordare quello che avviene. A quel tempo qualcuno mi aveva regalato una cassetta di Fred Astaire. Era un tributo che avevano realizzato per i suoi 80 anni, un tributo alla sua carriera. Mi piaceva molto guardarlo perché ballava con diverse partner ed era sempre così bello, elegante. Mi ha aiutato tanto quell'uomo. Spesso la gente mi diceva: mi aiuti tanto quando sono triste, quando sono malato, mi aiuta tanto ascoltarti cantare. E io questo non lo capivo prima. L'ho capito solo dopo la mia esperienza con Fred Astaire. Volevo uccidermi, ma ogni giorno compravo un nuovo video di Fred Astaire. Avevo rivoltato tutti i negozi di New York per trovare tutti i suoi film. Lo guardavo sempre, tutto il giorno. E così il tempo passava. E alla fine mi passò anche la voglia di uccidermi. Fui operata, mi curai e sono guarita. Una sofferenza esorcizzata attraverso l'arte, attraverso la bellezza. Il passaggio dalla disperazione al desiderio di combattere. Ecco quello che succede a questa donna che sta vivendo un'esperienza difficile, forse la più tremenda della sua vita. La lotta contro il cancro. Il suo nome è indissolubilmente legato al suo paese, il Portogallo, e alla sua espressione musicale sicuramente più famosa e popolare, il fado. Il suo nome è Amália Rodrigues. Amália Rodrigues. Famosissima in tutto il mondo, artefice del grande successo del genere musicale portoghese per eccellenza, il fado, Amália Rodrigues è una donna che lotta tutta la vita per diffondere l'amore che prova per il suo paese, per la sua musica e per la sua poesia. È impossibile tradurre il termine portoghese fado in tutti i suoi molteplici significati. Potrebbe forse avvicinarsi alla parola destino, il fatum latino, quella sorta di ineluttabilità della vita che ispira il tipico sentimento portoghese della saudade, quel misto di malinconia e nostalgia che si può raccontare solo mettendolo in versi e cantandolo. Sul dizionario di lingua portoghese di Antonio de Moraes Silva, datato 1878, la parola fado indica uno specifico genere di musica popolare cantata, poesia del popolo con ritmo e movimento particolare, accompagnato dalla chitarra. Le tematiche narrate nei fados sono varie. Amore in forma di desiderio, passione, perdita o tradimento. La descrizione della vita delle classi popolari di Lisbona o di altri villaggi. Le corride, le feste dedicate ai santi e i mestieri più diffusi alla fine dell'Ottocento, legati al mare, alla terra o all'illegalità. L'elogio di una città o di un quartiere e persino vicende politiche. Il fado è vita pulsante, ma soprattutto lo stato d'animo con cui vivere tutto ciò, la malinconia, la rabbia, la speranza, l'allegria, l'ardore. Il fado è pura emozione di vita. Si potrebbe anche definire con i meravigliosi versi della canzone Fado Portuguese del poeta José Regio. Cos'è il fado? Il fado è nato un giorno quando il vento non soffiava e il cielo prolungava l'orizzonte del mare e sul ponte di un veliero un marinaio triste cantava. estando triste, cantava. Ai, que lindeza tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas d'oro. Amália Rodrigues, universalmente conosciuta come la più grande cantante di fado portoghese di tutti i tempi, racconta di essere nata cantando. Ma con questo non intende dire che la sua infanzia sia stata felice o che lo sia mai stata lei. Anzi. Poiché esiste la morte, la vita appare subito assurda. L'ho sempre pensata così. Ho sempre avuto pensieri tristi. Di notte, quando vedevo le case che avevano ancora le luci accese, pensavo a quali problemi potevano avere in quelle case, con le luci ancora accese a quell'ora. Quando andavo a vedere gli spettacoli molto allegri, come le corride, vedevo la piazza piena di sole, tutta quella gente che batteva le mani, tanto contenta, e pensavo che di lì a qualche anno non ci sarebbe più stato nessuno, che sarebbero tutti morti. Da quando ero molto piccola ho sempre avuto questi pensieri tristi. Forse perché nasce da una famiglia molto povera e molto numerosa che Amália sente dentro di sé un'infelicità che mai l'abbandona. Dal 1920, anno in cui nasce a Lisbona, vive lontana dai suoi familiari più stretti, madre, padre e fratelli, affidata alla nonna materna che quando Amália ha solo 8 anni si vede costretta a mandarla a lavorare. Mentre vende le arance e qualche dolcetto nella pasticceria di Lisbona, dove la nonna le ha trovato un impiego, Amália canta. Canta sempre e ha una voce particolarissima. Tutti la conoscono. Nel quartiere dove abita, la gente è disposta perfino a darle qualche monetina pur di sentire la sua voce incredibile. Amália sente che è quello il suo destino, cantare. Ma quando lo comunica alla sua famiglia, se li ritrova tutti contro. Quel mondo è sinonimo di perdizione e di degrado. Solo una zia, Idalina, comprende il dono con il quale è nata Amália. Quella sua nipote sa cantare in maniera struggente, la sua voce è la sua stessa anima. E così riesce a combinarle un'audizione in una delle maggiori case di fado di Lisbona, o Ritiro de Severa. Qui suona uno dei più valenti chitarristi della vecchia guardia portoghese, Armando Augusto Freire. Quando Amália arrivò al ritiro di Severa era magra per le ossa perché non mangiava abbastanza, ma aveva una voce che faceva tremare. Ti toccava dentro e iniziò subito a cantare da noi, la presero immediatamente e vorrei vedere. Ma il proprietario dovette darle vestiti e scarpe e non aveva niente. È così che Amália entra nel mondo del fado. Ha 18 anni e non lo lascerà mai più. In pochi mesi diventa così famosa che tutti vogliono sentirla cantare, non solo a Lisbona, ma in tutto il Portogallo. Diventa la fadista più pagata tra quelle del circuito delle case del fado, suscitando anche parecchie invidie e gelosie. Il suo impresario, José de Melo, decide di tenerla lontana dalla radio e dalle sale di incisione. Pensa, se la gente ha un suo disco o la può ascoltare in qualche trasmissione, smetterà di andare ai suoi concerti. E così, per parecchi anni, Amália Rodrigues circoscrive le sue performance alla sola Lisbona. Lei non desidera di più. Ora guadagna bene, la sua famiglia non è più in ristrettezze. Decide perfino di sposarsi, anche se poi il matrimonio dura solo 3 anni. Se non fosse per quel senso di insoddisfazione costante che la perseguita, potrebbe perfino definirsi felice. Sono moltissimi i compositori che scrivono canzoni per lei. Federico Valerio, Lignars Barbosa, Federico De Brito, Amadeu Dovale. Il suo repertorio diventa molto vasto e il suo pubblico la adora. Amália viene richiesta spessissimo all'estero e infine il suo impresario decide che è il momento di farla uscire dalla ristretta cerchia delle case del fado e le organizza una tournée in Brasile. La scelta del paese è abbastanza chiara. In Brasile si parla portoghese e le liriche del fado possono essere ben comprese. Ma non solo. C'è chi crede che il fado possa essere nato proprio lì, in Brasile. Amália Rodrigues però non ha dubbi. Il fado è nato in Portogallo. O fado, os portugueses inventaram o fado. Il fado è stato inventato dai portoghesi. Per quale ragione? A causa della loro natura. I portoghesi di un tempo avevano molte ragioni per lamentarsi. Perché l'universo li aveva messi in questo posto dove nessuno sarebbe venuto se non ci fosse stato obbligato. Non ci sono altri confini se non con la Spagna, che è sempre stata in guerra con le sue spade e con tutto il resto. Intorno c'era solo il mare, che a quei tempi era considerato terribile, sconosciuto, terrificante. Per questo i portoghesi sono andati sempre alla scoperta di terre nuove. Così c'erano quelli che andavano e che soffrivano per la nostalgia. E c'erano quelli che restavano e che soffrivano per la mancanza. E avevano tanto tempo da aspettare, tanto tempo per soffrire. È così che è nato questo lamento. Il fado è un lamento. Amalia è dunque in partenza per il Brasile. Lei che non si è mai mossa da Lisbona tranne per un breve viaggio a Madrid, attraversa quel mare sconosciuto e terrificante, come lo ha definito lei stessa, e canta a Rio de Janeiro, al casinò di Copacabana. È il 1945 e Amalia ha 25 anni, bellissima, fiera, elegante. È una donna del popolo, del suo popolo, e non ha paura di niente. Cantare le viene così naturale, lo ha sempre fatto, non si ricorda un solo giorno in cui non abbia cantato in tutta la sua vita. Cantare in camera sua o al porto di Lisbona per accogliere i turisti, oppure al casinò davanti a un pubblico, per lei fa poca differenza. Il successo è grandissimo. Il contratto con il casinò di Copacabana è di 4 settimane, ma Amalia Rodriguez fa il tutto esaurito e la sua permanenza viene prolungata addirittura a 4 mesi. Durante questo periodo, l'anima del fado, come ormai tutti la chiamano, registra il suo primo disco, un 78 giri, con la casa discografica Continental. È il primo di una lunghissima serie di dischi che Amalia registrerà nel corso della sua brillante carriera. Al suo rientro in Portogallo, riceve una proposta che di sicuro non si aspettava. Mi chiesero di interpretare un film. Si intitolava Capas Negras. Io non avevo mai recitato, ma pensai: nessuno mi ha insegnato a cantare, eppure io canto ugualmente. Allo stesso modo, nessuno mi ha insegnato a recitare, ma posso fare l'attrice. Il film fu ben accolto. La gente amava ascoltarmi cantare e io lì cantavo parecchio. Amalia è bravissima anche come attrice. Recitare le viene naturale come cantare. Tanto che le viene proposto subito un altro film, Fado, storia di una cantante, che è quasi una sua biografia. Il suo successo è grandissimo e attraverso lei il fado, le sue liriche e le sue sonorità vengono conosciute in tutto il mondo. Alcuni suoi successi diventano dei classici anche in altri paesi, tradotti e cantati da interpreti famosi. Que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não tira onde não é chamado. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é assim ou não é. Ai não, não é. Amalia Rodriguez, famosa cantante portoghese soprannominata l'anima del fado, il genere musicale che canta la saudade, il male di vivere e la malinconia tipica del Portogallo, diventa una star internazionale. Il suo modo di cantare del tutto personale, le sonorità e le liriche del fado popolari e rivolte a un vastissimo pubblico, vengono accolti con entusiasmo. Non è necessario comprendere tutte le parole, il fado è un modo di pensare, di sentire e ha un linguaggio universale. È così che Amalia sbarca addirittura a Hollywood. È il 1954 e gli Stati Uniti le appaiono come un mondo incredibile. E anche la musica americana, come lei stessa racconta. Non è che avessi mai ascoltato molta musica americana. Ebbi modo di conoscerla ad alcune cene che furono organizzate in occasione dei miei concerti. Cantò per me Perry Como, e Vic Damone, Eddie Fisher e perfino Frank Sinatra. Il successo internazionale e la consacrazione definitiva arrivano per Amalia con il film Les Amants d'Outage di Henri Verneuil, dove Amalia interpreta praticamente se stessa. La canzone Barco Negro, che lei canta nel film, piace talmente tanto che durante le riprese si verifica un episodio molto divertente. È la stessa cantante a raccontarlo in una intervista. Barco piaceva talmente tanto che quando registrammo la scena io cantai il finale e i figuranti che rappresentavano il pubblico si dimenticarono che stavamo girando e si misero tutti ad applaudire. E in quel momento non doveva succedere. Il regista mi disse: la mia scena è rovinata, ma la tua è stata un'interpretazione davvero meravigliosa. I giornali dissero poi che il film non era un granché, ma che valeva la pena vederlo solo per la mia canzone. Il successo di Amalia è tale che per lei si aprono addirittura le porte dell'Olympia, mitico teatro parigino, tempio della musica mondiale. È la prima artista portoghese a ottenere un riconoscimento così grande. I francesi impazziscono per lei. Perfino il grande Charles Aznavour, che dichiara pubblicamente la sua ammirazione per la magica cantante portoghese, scrive per lei una canzone stupenda. È la famosissima Ai Mourir Pour Toi. À l'instant où ta main me frôle, Al suo ritorno in patria, Amalia è accolta come un'eroina. Nessuno ha mai fatto tanto per il Portogallo e la diffusione della sua cultura nel mondo. Se non felice, perché è un sentimento che purtroppo Amalia non riesce a sentire dentro di sé, la cantante è però molto soddisfatta, anche sotto il profilo personale. Dopo anni di solitudine, ha incontrato un uomo, un ingegnere brasiliano, César Seabra, e decide di sposarsi. Questa volta per Amalia è la scelta giusta. César si rivelerà l'uomo per lei e i due resteranno sposati tutta la vita. Ed è a questo punto che Amalia ha incredibilmente una crisi artistica. Forse il fatto di essere improvvisamente realizzata nella sua vita privata, forse un po' di stanchezza dopo anni e anni di concerti, ma forse anche una crisi più profonda legata alla natura stessa del fado, che è una musica tradizionale e classica e come tale definita entro schemi ben precisi. Amalia incomincia a essere stanca. Il fado e le sue liriche le appaiono ormai superate e così pensa di ritirarsi dalle scene. Ci pensavo già da un po' di ritirarmi. Poi mi capitò un fatto. Mentre mi trovavo in aereo verso Rio de Janeiro, mi trovai tra le mani una rivista portoghese dove era riportata una bellissima poesia di Guerra Junqueiro. Mi piacque subito. Allora mi misi a cantarla lì, sul momento, con una melodia qualunque. Pensai che sarebbe stato magnifico mettere in musica i versi dei nostri poeti. Provai anche con Pedro Homem de Melo e anche le sue liriche potevano essere cantate. Provai a proporglielo e lui ne fu entusiasta. Quando sentii i miei versi cantati dalla struggente voce di Amalia, avvertii un immediato sentimento di vittoria. Capì che attraverso la sua voce essi potevano davvero arrivare al cuore della gente. Certo, le poesie dei magnifici autori portoghesi sono meravigliose. Esse sono ispirate dagli stessi temi del fado, la nostalgia, la malinconia, quella tristezza di fondo tipica dei portoghesi. Ma serve la musica giusta, senza di essa è impossibile. Amalia ha in mente qualcosa di grande e rivoluzionario. Un fado nuovo, liriche estremamente poetiche, musiche di un'eguale profondità. Ma chi potrebbe mai scriverle? Amalia non conosce nessun compositore di fado che le paia adatto. Convinta che sia praticamente impossibile realizzare il suo sogno, la grande cantante decide di prendersi una vacanza. Mentre si trova a Baía do Lissandro, vicino a Ericeira, non ci pensa neanche più. Ha detto a suo marito César che è decisa a lasciare le scene, a non cantare più. In fondo ha ottenuto un successo strepitoso in 20 anni di carriera, la conoscono ovunque, in patria è considerata un'eroina, ambasciatrice del fado nel mondo. Non può desiderare di più. E anche se ha solo 40 anni, sente che è l'ora di ritirarsi. Non sa ancora che in quello stesso luogo di villeggiatura è arrivato un giovane pianista che segue la sua carriera da molto tempo. Il giovane conosce a memoria tutte le sue canzoni, è appassionato di poesia e di fado e soprattutto sta per cambiare per sempre la vita di Amalia per rivoluzionare completamente il mondo del fado tradizionale. Tra poco, a Destini Incrociati. Quem souber e aprende-se a dizer saúde. Destini incrociati. Ho detto addio a tanti paesi, a tante persone. Mai ho sentito il mio cuore tanto ferito, inquieto, sapendo che il tempo passa e tu dimentichi il nostro fado. Sono i versi iniziali della splendida poesia Vagamundo del grande poeta portoghese Luís de Macedo. Un uomo li sta recitando, per meglio dire, cantando, ad Amalia Rodrigues, impagabile interprete del fado. Famosissima e ammirata non solo in patria, ma anche all'estero, Amalia Rodrigues è la portavoce di questo malinconico e nostalgico genere musicale popolare, fatto di liriche semplici e musiche della tradizione, che la cantante porta in giro per il mondo con grande successo, grazie anche alla sua voce unica e inconfondibile e alla sua fortissima personalità. Dopo 20 anni di carriera, però, Amalia si ritrova a 40 anni al bivio della sua vita. Il fado le ha dato molto, lei ha dato molto al fado, ma si tratta di un genere ancorato alla tradizione e come tale piuttosto statico, fermo. E Amalia è un po' stanca, vorrebbe nuove tematiche, nuove parole e soprattutto nuove sonorità. Ha un sogno, le piacerebbe trasformare in canzoni di fado le poesie dei grandi poeti portoghesi. Ma questo potrebbe apparire quasi un'eresia, il fado è un genere popolare. Ecco perché Amalia sta prendendo la decisione di ritirarsi dalle scene, stanca e francamente, nonostante il grandissimo successo e l'amore che tutti le dimostrano, non sente più stimoli artistici e la sua creatività di cantante si è esaurita. Ma mentre si trova in vacanza a Baia d'Olisandro, nei pressi di Ericeira, viene avvicinata da un giovane che si dichiara un suo fan da anni. Il giovane la prega di ascoltare una cosa che ha scritto per lei. Si mette al pianoforte dell'albergo e inizia a cantare i versi del grande poeta Luis de Macedo. La sua musica è a dir poco meravigliosa. Amalia Rodriguez ne è incantata e chiede al giovane chi sia. Il pianista si presenta. Il suo nome è Alan Ullmann. Alan Ullmann. Io amo tre cose: le poesie, il fado e Amalia. Alan Ullmann ripete sempre questa frase. Sono solo tre cose che ama con tutto se stesso: le poesie, il fado e Amalia Rodriguez. Fin da ragazzo, nel quartiere popolare di Lisbona, dove nasce, seduto al pianoforte, con una mano suona, mentre con l'altra legge i libri di poesie dei suoi poeti preferiti. Joao de Deus, Joao Horis, Pedro Homem de Melo, Manuel Alegre, David Murau Ferreira. Alan prende esempio dal grande cantante francese Léo Ferré, che compone musiche sulle liriche dei classici francesi, Verlaine, Rimbaud. Mentre sta leggendo Vagamundo, la struggente lirica del grande poeta portoghese Luis de Macedo, si sta già immaginando cosa potrebbe voler dire se solo la sua cantante preferita, la grandissima Amalia Rodriguez, potesse ascoltare la sua canzone, coi versi meravigliosi messi in musica da lui. Una canzone scritta appositamente per lei. Alan Ullmann scrive la canzone Vagamundo per Amalia Rodriguez e la insegue letteralmente. La grande cantante si trova in vacanza a Baia d'Olisandro e Alan la cerca, le si para davanti e quasi la obbliga ad ascoltare la sua canzone. La trascina al pianoforte dell'albergo e non si dà pace fino a quando lei non si mette ad ascoltarlo. Amalia ne rimane letteralmente sconvolta. Mentre le meravigliose note scritte da Alan avvolgono le parole struggenti della poesia di Luis de Macedo, Amalia sta pensando che quello che lei ha cercato per tanto tempo, quelle sonorità e quelle melodie sulle quali cantare i poeti della sua terra, forse sono proprio lì, ora, in quel preciso momento, nelle mani di quello sconosciuto musicista testardo. Forse quel suo desiderio che ha abbandonato, creare un fado moderno, dare l'avvio a una nuova stagione della musica popolare portoghese, si sta per realizzare. Alan Ullmann aveva composto una musica pensandomi, Vagamundo. L'ascoltai e mi piacque immensamente, ne seguirono altre e andai contro la marea di persone che mi stavano intorno e che trovavano quella musica molto complicata. I chitarristi, effettivamente, dovettero imparare quelle armonie nuove che aveva portato Alan, armonie che non avevano niente a che fare col fado, visto che il fado è povero in armonia. Ed io le ho cantate perché per me erano fado. Oltre alla musica, Alan, con la sua vasta cultura, mi ha fatto conoscere grandissimi poeti. Alan non componeva soltanto la musica, ma cercava, nei libri di poesia, testi nuovi. Ci fu molta gente che disse che io non cantavo più il fado, che quello scritto da Alan non era fado. A cominciare dai chitarristi. José Núñez, quando doveva suonare le cose di Alan, diceva sempre «Andiamo a suonare le opere». Alan Ullmann è un autore molto diverso da quelli a cui è abituata Amalia. Non è un compositore che proviene dal mondo del fado, ne ha una visione esterna. E poi è più colto, cosmopolita, non ha paura delle sfide, dell'innovazione. Non teme di contravvenire alle rigide leggi del fado, ai suoi canoni e alle sue tradizioni. Alan rischia di più, osa di più rispetto ad altri autori. E Amalia lo segue. La cantante trova in Alan una nuova ragione alla sua arte. Il repertorio tradizionale, il così chiamato fado degli infelici, viene messo da parte. Ora è venuto il tempo di cantare i grandi poeti della letteratura portoghese. Con Alan, Amalia incide l'album Asas Fechadas, Ali Chiuse, meglio noto col titolo di Busto. Quest'album è una vera e propria pietra nello stagno per i nuovi orizzonti che porta al fado e alla musica portoghese, per il grandioso panorama letterario che presenta. Per quello che riguarda le innovazioni musicali, non c'è più solo il tradizionale accompagnamento fatto alla chitarra portoghese, ma anche l'aggiunta melodica del pianoforte, suonato da Alan Ullmann. È una netta rottura con la tradizione in termini di immaginario e di sonorità. Vi si avverte la voglia di superare strade e modelli tematici e musicali imposti da troppo tempo. Nel farlo, Amalia e Alan non soltanto innovano il fado, ma aprono nuove strade per i fadisti della generazione successiva. La critica, nel sentire il disco, non lo considera però vero fado, come racconta lo stesso Ullmann. Facemmo scandalo. L'aristocratica fedista Maria Teresa di Noronha affermò in modo sarcastico che le parole che cantava Amalia erano alla Picasso. José Cardoso Pires qualificò il disco come demagogia da quattro soldi. Anche Julio de Sosa, autore di testi, non apprezzò il fatto che Amalia osasse cantare i poeti, dicendo che nella gola di Amalia tutto assume lo stesso valore. Per sottolinearlo aggiunse che cantava l'Ignace Barbosa così come cantava Camões, non valorizzando alcunché. Il poeta José Gomes Ferreira affermò che non era d'accordo con l'idea del disco e tantomeno era disposto ad ascoltarlo. Beh, avevamo davvero fatto un bel botto. Nessuna di queste affermazioni fa indietreggiare i due artisti di un passo nel proprio proposito: divulgare, attraverso la voce di Amalia Rodrigues e la musica di Alan Ullmann, alcuni poeti eruditi di lingua portoghese. Dopo questo disco, Amalia osa ancora di più, andando verso l'incontro con il poeta che sente essere, nella sua voce, il più amato, dato che è quello che profondamente più comprende e trasmette il significato della parola fado, Luis de Camões. E Amalia canta Camões con la musica di Alan Ullmann, togliendolo dalla polvere dei libri, della lettura, degli studi eruditi, divulgandolo con la sua voce a un pubblico che appena lo conosce. Questo incontro così forte fa nascere una grande polemica e all'appoggio di molti si oppone la reazione di chi considera la cosa come un'eresia. La critica è aspra e la reazione di una elite intellettuale che ha una visione dell'arte aristocratica e classista e che dichiara come fosse un dogma che Camões non è compatibile con il fado e quindi con il popolo e un genere musicale popolare. Ma Amalia non è d'accordo. I versi scritti dei poeti sono fatti per essere cantati e conosciuti. I poeti appartengono al popolo. E io sono del popolo. Amalia e Alan hanno ragione. Il pubblico li premia con un grande successo, ma purtroppo sta per accadere qualcosa di terribile al loro sodalizio artistico. Va ricordato che in Portogallo governa da molti anni il regime fascista di Antonio de Oliveira Salazar, ammiratore di Benito Mussolini. La sua politica repressiva nei confronti di chiunque sia avverso al suo regime ha uno strumento efficace e terrificante: la polizia politica segreta, la PIDE, Policía Internacional de Defensa do Estado. Alan Ullmann è un uomo di sinistra ed esprime apertamente e senza alcun timore le sue idee. Ma non ha fatto bene i conti con la PIDE, che in un terribile giorno del 1966 lo preleva da casa sua e lo arresta. Per Amalia è un fulmine a ciel sereno. Lei non si occupa di politica, non le interessa, lei canta e basta. Ma l'arresto di Alan non può sopportarlo. La cantante si fa in quattro per aiutare il suo amico e collaboratore. Per fortuna Ullmann è un uomo troppo in vista perché si possa pensare di farlo sparire nel nulla come capita a molti dissidenti di Salazar. Il governo decide per la sua espulsione dal Portogallo. Alan si rifugia a Parigi, da dove continua incessantemente a lavorare per Amalia Rodrigues. Antes que o sol se va, como pássaro perdido. Também te direi adeus, solidão, solidão. Também te direi adeus. Destini incrociati. Il fado non è né allegro né triste, è la stanchezza dell'anima forte, l'occhiata di disprezzo del Portogallo a quel dio cui ha creduto e che poi l'ha abbandonato. Nel fado gli dei ritornano, legittimi e lontani. Fernando Pessoa, famoso scrittore e poeta portoghese, descrive così quel particolare sentimento di saudade, la malinconia mista alla nostalgia che ispira le canzoni del fado, genere musicale popolare che trova la sua massima espressione nella voce e nell'arte di Amalia Rodrigues. Cantante dalla timbrica unica, interprete sensibile e meravigliosa, Amalia è chiamata l'anima del fado, e grazie al suo incredibile successo fa conoscere ben oltre i confini del Portogallo questo genere musicale molto popolare e fino a quel momento circoscritto al suo paese d'origine. Dopo un ventennio di carriera e di grandi successi, Amália decide improvvisamente di abbandonare le scene. Ma proprio quando è in procinto di ritirarsi, incontra il pianista e compositore Alain Ullmann, suo grandissimo ammiratore, il quale ha messo in musica proprio per lei una stupenda poesia del grande letterato Luis de Macedo. Il loro è un colpo di fulmine professionale. Amália inizia a cantare i poeti classici, i suoi poeti, come lei li chiama, portando il fado verso nuovi orizzonti, dandogli nuovi contenuti culturali, realizzando una lunga serie di dischi in compagnia del suo complice Alain Ullmann. Alain cambiò tutto. Fu la nascita di una Amália completamente differente. Non solo la sua musica era straordinaria, era perfetta per me, ma era come se stessi aspettando quella musica da sempre. Il mio modo di cantare la stava aspettando. Appagò totalmente il mio bisogno di pronunciare quelle bellissime frasi con la giusta melodia per esprimere il significato e la forza che avevano. Quando il regime repressivo di destra di Antonio de Oliveira Salazar fa arrestare Ullmann, uomo apparentemente di sinistra e simpatizzante degli oppositori del governo, Amália usa tutte le sue conoscenze conquistate in anni di successi in patria e all'estero per aiutare il suo collaboratore e amico carissimo. In fondo sono o non sono l'anima del fado, si sta domandando. A qualcosa servirà pure il successo che ha ottenuto in tanti anni di carriera. Alain non può rimanere in carcere. L'intercessione di Amália ottiene un risultato immediato. Ullmann viene scarcerato ma esiliato e sceglie di rifugiarsi a Parigi, da dove continua incessantemente a comporre canzoni per la sua amica e musa ispiratrice. Minuziosa formiga, non ten che se le diga, leva sua pallinha. Non ten che se le diga, leva sua pallinha. Assim, assim, assim deverá eu ser. Assim deverá eu ser. Assim deverei eu ser, assim deverei eu ser. Con la rivoluzione dei garofani, il colpo di stato attuato nel 1974 dalle forze progressiste dell'esercito portoghese che pone fine alla lunga dittatura di Salazar, per i due artisti le posizioni si invertono. Mentre Ullmann viene riabilitato e torna in patria, Amália viene tacciata di essere la portavoce del regime e il suo simbolo nel mondo. Nulla di più lontano dalla verità per chi, come lei, ha lottato per portare la poesia classica ed elitaria del Portogallo al popolo. Amareggiata, la cantante intensifica i suoi concerti all'estero e parte per una lunghissima tournée. È a New York quando nel 1984 le diagnosticano un cancro e decide di suicidarsi. Ma ancora una volta a salvarla e riconsegnarla al suo pubblico è l'amore per l'arte. In questo caso, esso assume il volto del grande Fred Astaire. Amália, chiusa nella sua camera d'albergo, vede tutti i film del grande ballerino e, conquistata dalla sua bellezza e dalla grazia con cui si muove, sceglie la vita. Decide di curarsi e di affrontare questa ennesima battaglia, ma è ben triste, lontana dal suo paese. Per intercessione di Alain, però, il nuovo governo socialista del Portogallo rivede la sua posizione ufficiale nei confronti della grande cantante e la riabilita. Amália può tornare a casa, accolta dal suo pubblico che la adora da sempre. Non sono io che canto il fado, è il fado che canta me. Si può senz'altro dire che esiste un fado prima e un fado dopo Amália Rodríguez. La sua grande passione apre nuove strade e frontiere lirico-musicali, dando origine a quello che è chiamato fado moderno, che è senza dubbio una sua meravigliosa e incommensurabile eredità, della quale tutti gli amanti del fado sono grati quanto lo stesso Alain Ullmann. Quando si scrive musica, sentirla poi interpretata dalla voce di Amália è un'esperienza indescrivibile. Amália è stata sicuramente la persona che ha influenzato maggiormente la mia carriera musicale. Grazie ad Amália ho scritto le musiche per i maggiori poeti del mio paese. Per questo, e per molte altre cose che non posso citare in questo momento, dal profondo del mio cuore franco-portoghese dico grazie ad Amália Rodríguez. O branco véu da saudade cobre teu rosto, linda princesa. Olhai, senhores, esta Lisboa.